noi banani, noi patrioti, noi democratici, moderati come Borghesio, tranquilli, pacifici, noi in questo arcobaleno di pace, facciate di merda di Roma, così ve lo diamo l'interesse nazionale. No, bigottismo universale, solidali, sono moderati, moderati un cazzo, marocchini di merda, con gli islamici che rompono il cazzo delle scuole e vorrebbero privarci dei nostri simboli, sinistra di merda, sinistra di vigliacchi, sinistra falsa, no global delle balle. Piacere, mi presento, sul New Cristo con il rasta e non cerco la calma dopo l'ultima tempesta, perché il mio compatriota scambia il falso con il vero. Italiani brava gente sì, ma non ne vado fiero. Non riesco a vantarmi di un popolo invasore che occupa le terre ostentando il tricolore, e vorrei farlo capire nella mente di ognuno, è solo una canzone e non ammazzerà nessuno. Talea, quanta gente sfrutta e si ricrea. Talea, confanente picchi si sedia. Talea, mattina e sera stessa litania. Talea, talea, purtroppo siamo in Italia. Talea, per la patria vai a Nassi. Talea, ma tu dovici fare senza me. Talea, un futuro senza garanzia. Talea, talea, purtroppo siamo in Italia. I piccioloni votano, li trovo se li cerco. Aumentano i problemi, ma li metto sotto banco. E me ne fotto della guerra, ma il TG5 non manco. È mio italiano meglio, sorri, sono nato stanco. Nessuno gusta musica, soddisfi i miei bisogni. Trovo la forza come quando lotto con i compagni. E sì, mio siciliano, palermitano. Ma invece che italiano mi sento nordafricano. Talea, campo cent'anni con le cazze mea. Talea, assunto tutto tu. Come tutta mia, Talea, vivo la mia vita e così sia. Talea, com'è la bella vita in Italia. Talea, moderno fascismo e polizia. Talea, a ci occupare di democrazia. Talea, qui solo vi minchiate sabbilia. Talea, talea, purtroppo siamo in Italia. Allevati dai latini, poi da arabi e normanni. Italiani brava gente ma sfruttata da millenni. Crimini giustificati da oppressori e da malanni. I politici al governo, tutti i tiranni. E nascivi in un quartiere, guarda la razzona mia. La mattina non c'è luce, picco sulle sicuraggia. Delinquenza, mafia pure, microcriminalità, realtà di ogni quartiere, vota Forza Italia. Talea, quanta gente sfrutta e sta ricrea. Talea, confannente picchi si sedia. Talea, mattina sera stessa litania. Talea, talea, purtroppo siamo in Italia. Talea, per la patria vai a Nassiria. Talea, ma cui tu dici fare senza me. Talea, un futuro senza garanzia. Talea, talea, purtroppo siamo in Italia. Italia, del tuo buon costume ne faccio pattume. Italia, da Piemonte alla Sardegna l'italiano medio regna. Italia, la gente strana posse da Piazza Magione. Italia, guarda che disonore, vilipendio la nazione. Italia, campo cent'anni con le cazze mea. Italia, assunto tutto tu me frutta mea. Italia, vivo la mia vita e così sia. Italia, com'è la bella vita in Italia. Italia, moderno fascismo e polizia. Italia, a ci occuparra di democrazia. Italia, tu solo vi minchiate sabbilia. Italia, Italia, purtroppo siamo in Italia. Damose da fa, volemo se bene, siamo romani.